I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Sebastiano Barisoni. Di flessibilità, o di maggiore flessibilità per essere più precisi, sui conti pubblici italiani si parlerà a questo punto a maggio. E questa è l'indicazione che potrebbe sintetizzare quanto uscito ieri dalla Commissione Europea, una Commissione Europea che ha rivisto leggermente a ribasso sia le stime di crescita italiana per l'anno in corso e per l'anno prossimo, sia quelle complessivamente dei paesi europei. Bruxelles ha fatto notare con più dichiarazioni, a partire da quelle del commissario degli affari economici Moscovici o del vicepresidente Katainen, che l'Italia ha già utilizzato e più volte la flessibilità a sua disposizione. Il tema però resta chiaramente il 2017, laddove, se non venissero trovate le coperture, scatterebbero le famigerate clausole di salvaguardia, ossia 15 miliardi circa da trovare per evitare che scattino gli aumenti di IVA e accise. Il ministro Padoan ha detto che le coperture saranno trovate attraverso una riduzione della spesa, ma il punto posto da Bruxelles è abbastanza chiaro: inutile continuare con il botta risposta tra Roma e la Commissione europea sulla flessibilità per l'anno in corso. L'Italia sarà trattata come tutti gli altri partner e a maggio si capirà se le prospettive molto incerte di crescita economica verranno confermate o, speriamo di no, riviste al ribasso. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alberto Orioli. Famiglie e imprese viste dall'Istat fotografano perfettamente la situazione del paese. Le famiglie vedono aumentare il reddito disponibile, il potere d'acquisto grazie al buon andamento dei rinnovi dei contratti di lavoro, al recupero di occupati e quindi di stipendi, e al calo dei prezzi del petrolio che fa abbattere i costi per l'energia e la benzina. Nel terzo trimestre 2015, dato diffuso oggi dall'Istat, il potere d'acquisto è aumentato dell'1,4% rispetto al trimestre precedente. Ed è un buon dato, ma non si trasferisce ancora purtroppo ai consumi, bensì serve per adesso ad aumentare il risparmio delle famiglie. Significa che la fiducia non è ancora in circolo come dovrebbe e che dunque l'economia non può ancora dispiegare tutti gli effetti positivi della ripresa dopo gli anni bui della recessione più grave del dopoguerra. Del resto anche le imprese mostrano molta cautela. Le attese sull'andamento generale dell'economia, ci dice sempre l'Istat oggi, sono meno brillanti che nel trimestre precedente, motivo per cui le aziende tendono a contrarre ancora gli investimenti e a limitarsi ad aumentare l'occupazione. L'indice di fiducia dei servizi dell'Istat infatti a gennaio ha subito una battuta d'arresto, pesano i dubbi sulle banche, i rovesci delle borse, nonché il rallentamento generale dell'economia mondiale che colpisce l'export, finora vero antidoto italiano ai morsi della crisi. E l'indice anticipatore dell'andamento del settore manifatturiero, diffuso anch'esso oggi, mostra segni di rallentamento e di incertezza. Infatti in gennaio le aspettative degli imprenditori sull'evoluzione dell'occupazione nei successivi tre mesi sono tornate a peggiorare lievemente nel settore manifatturiero e nel commercio, mentre continuano per fortuna a migliorare nei servizi. Insomma, un paese con il freno a mano tirato, guardingo e spaventato. Purtroppo la fiducia non si vende nel negozio sotto casa e tantomeno serve far finta di averne comprata a piene mani. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.